Aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti da Deborah Rossani. Lo sapete bene, ne siamo ossessionati da queste informazioni. Scatta oggi il lockdown per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che diventano zone rosse. Infatti entra in vigore l'ultimo DPCM che suddivide l'Italia in queste tre fasce di rischio. Le altre due sono la gialla e l'arancione. Ciascuna è caratterizzata da misure restrittive diverse e crescenti, quindi scuola, spostamenti, qualche attività commerciale lasciata aperta, le possibilità della sport per gli esercenti, attività motorie all'aperto e modalità di lavoro sono alcuni dei passaggi nei quali emerge l'approccio un pochino più soft dell'ultimo provvedimento rispetto a quello che era stato preso per la scorsa primavera. Perché anche noi abbiamo cominciato così questa mattina, non perché sarà il tema di Due di Denari, ma perché, come sapete, anche le attività culturali di ogni tipo sono praticamente chiuse, e allora c'è chi si attrezza in qualche modo per mantenere un po' almeno vivace l'ambiente nel quale si vive. C'è chi si ingegna trovando delle modalità nuove per proporre almeno delle attività che erano già state organizzate e che ora sono rese impossibili dalle misure. Questo caso che vi vogliamo raccontare è molto carino. Dobbiamo andare a Torino. Il Piemonte è una delle regioni chiuse, quindi area rossa. C'è questa mostra, ovviamente rigorosamente chiusa al pubblico, ma aperta a tutti gli abitanti del condominio che la ospita. La mostra si chiama Gentil Vicini e presenta le opere degli artisti che hanno preso parte al programma di Residenza 2020, dedicato a giovani artisti italiani e realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni Culturali e SIAE, nell'ambito dell'iniziativa Per Chi Crea. E dunque, visto che le regole imposte dal DPCM appena varato dal governo rendono impossibile aprire la mostra al pubblico, gli artisti hanno deciso di allestirla ugualmente, pensandola esclusivamente per i circa 200 condomini che abitano lo stabile di via San Giovanni Battista La Salle 16 a Torino. E quindi ci sembrava carino appunto segnalarvi questa iniziativa. Peraltro, per la vita di condominio è veramente un momento difficile, perché come sapete in molte circostanze non si possono svolgere regolarmente le assemblee, ci si attrezza anche organizzandole in cortile, lo dico perché è capitato anche a me, e quindi insomma in qualche maniera la vita a condominio è veramente l'ultima spiaggia di una vita sociale che ci sta mancando moltissimo in questo periodo, e per chi l'ha potuta per chi se l'è potuta godere fino all'altra sera, naturalmente prima della chiusura definitiva dei locali e dell'arrivo appunto delle nuove misure di restrizione con il nuovo coprifuoco, chiaramente adesso ci rimane davvero la vita di condominio. Insomma, abbiamo voluto cominciare così un po' per regalarvi un sorriso. I temi di cui parliamo però quest'oggi a Due di Denari, torniamo al nostro vil denaro. Due gli argomenti. Nella prima parte vi racconteremo come funzionerà il bonus internet che parte da lunedì. Questo bonus fino a 500 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi. Rischia di essere un altro click day, perché anche in questo caso le risorse non sono moltissime, nel senso sono abbastanza, ma dobbiamo capire appunto se tutte le famiglie che teoricamente potrebbero fare richiesta di questo bonus potranno essere accontentate. In questo caso ci sono chiaramente dei requisiti abbastanza stringenti per quello che riguarda le condizioni reddituali dei richiedenti. Ma lunedì parte anche un'altra operazione, il collocamento del nuovo BTP Futura, un'altra operazione del Tesoro con destinazione precisa, un'operazione finalizzata a rastrellare risorse, chiaramente anche in questo caso per l'emergenza sanitaria. Quindi è la terza operazione in questo senso del Tesoro italiano quest'anno. C'è stato il BTP Italia finalizzato a maggio, il primo BTP Futura a luglio e questo è il secondo BTP Futura. Vi racconteremo che cosa garantisce, quali sono appunto i parametri, le caratteristiche di questa operazione. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Potete come sempre anche scriverci al 349 238 6666, i vostri messaggi SMS su WhatsApp. Siamo pronti per partire con le notizie in breve. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Sta per partire, come sapete, il programma Italia Cashless. La lotteria degli scontrini abbandona il contante. Per rafforzare ulteriormente la spinta ai pagamenti digitali, arriva l'esclusione esplicita di ogni tipo di tassazione del cashback, cioè, lo ricorderete, quel meccanismo di rimborso per chi salda gli acquisti, paga i suoi acquisti, ad eccezione di quelli online, con moneta elettronica, quindi bancomat o carta di credito. Qual è la novità degli ultimissimi minuti, delle ultimissime ore? Che nel cantiere del programma Italia Cashless lanciato dal governo con la manovra dello scorso anno arrivano due ritocchi pesanti destinati ad entrare nella manovra di bilancio attesa appunto in Parlamento a breve. La lotteria scontrini, che dopo tre rinvii è in procinto di partire il prossimo gennaio, premierà soltanto gli acquisti effettuati con carte, bancomat, applicazioni e altri sistemi di pagamento elettronico. E quindi, come ricorderete, c'è tutto l'iter da seguire: andare ad accreditarsi sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, ottenere un codice personale che poi dovrà essere esibito durante l'acquisto all'esercente, che lo traccerà naturalmente, però l'acquisto dovrà essere effettuato solo con moneta elettronica, e poi chiaramente con tutte queste informazioni che dialogheranno tra di loro si potrà partecipare alla lotteria degli scontrini. La prima, se non mi ricordo male, sarà proprio, Marco, se non mi ricordo male, il 14 gennaio, no? Il 14 gennaio, sì, adesso lo andiamo a verificare. E quindi questo è un cambiamento importante, del quale vi raccontano tutto Marco Mobili e Giovanni Parente oggi sulle Sole 24 Ore. A proposito di pagamenti fatti con carta, allora, lo sapete come funziona il distributore automatico del carburante? Se volete pagare con carta o bancomat, appunto, inserite la carta e il meccanismo preautorizza l'utilizzo di una somma fino a 100 euro. Allora, le preautorizzazioni ai pagamenti di carburante fatti con la carta ricaricabile rimanevano attive per settimane e limitavano la possibilità di fare altre operazioni. In pratica, si poteva andare in rosso anche per un pieno di 5 euro al motorino. Lo ha scoperto Confconsumatori, che ha deciso così di inviare una segnalazione all'antitrust, l'autorità per la concorrenza e il mercato, appunto. L'associazione racconta di avere ricevuto diverse segnalazioni da molte parti d'Italia proprio su anomalie registrate nei pagamenti per i rifornimenti di carburante effettuati con carte di pagamento ricaricabili. Di norma, conclusa l'erogazione di carburante, la preautorizzazione dovrebbe terminare entro brevissimo tempo e non durare addirittura settimane, come i casi appunto segnalati a Confconsumatori. E però, insomma, la questione è stata scoperta, è stata segnalata ad antitrust, e vedremo se adesso ci saranno dei correttivi rispetto a tutto ciò. Un'altra questione che vi ha veramente scaldato gli animi questa settimana: si riaprono i termini per ottenere il bonus bici, ma questa volta non ci sarà un nuovo click day. I 215 milioni di euro stanziati originariamente sono andati, lo sapete bene, esauriti in 24 ore dopo la lunghissima coda virtuale della quale in molti siete stati vittime, che ha provocato anche polemiche a non finire, peraltro non ancora chiuse. Per chi è rimasto escluso, pur avendo in mano una fattura per l'acquisto di una bicicletta o un monopattino, si riapre la possibilità di ottenere il rimborso con nuovi fondi che saranno stanziati a partire dal 9 novembre fino al 9 dicembre, quindi questa è un'altra partenza per lunedì prossimo. Chi non ha avuto accesso ai fondi potrà registrarsi alla piattaforma www.buonomobilità.it, la stessa del famigerato click day del 3-4 novembre, caricando i propri dati e la fattura, sempre utilizzando lo SPID, l'identità digitale. Tutto questo, insomma, è stato reso noto nelle ultime ore dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. È tardissimo, direi di aprire la serranda del nostro sportello reclami. Dillo a due di denari. Buongiorno, sono un NCC e lavoro con Uber. A proposito dei tassisti, stavo ascoltando che lei ha preso il taxi e che gli hanno chiesto della carta di credito, se voleva pagare con carta di credito. Non diciamo cavolate, siamo in Italia, i tassisti ci chiamano a noi Uber. Noi paghiamo solo con carta di credito, veniamo pagati, quindi dichiariamo tutto, obbligati a dichiarare tutto, mentre i tassisti hanno tre case a testa, quattro macchine, la Chevrolet Corvette in box, ma come fanno? Come fanno? Quindi che non dica che stia cambiando idea sui tassisti, perché i tassisti hanno ancora il tassametro non fiscale, perché il tassametro emette scontrino, ma non è fiscale. E il tassista paga le tasse così, arriva dal commercialista una volta all'anno e gli dice: quest'anno ho guadagnato 30.000 e gli altri 50 li ha messi in nero sotto il materasso. Grazie. Allora, adesso qua non vorrei riaprire ulteriormente la contrapposizione fra due di denari e i tassisti, questa è naturalmente l'opinione dell'ascoltatore, però come sapete noi non censuriamo nessuno e mediamente mandiamo in onda tutti i vostri commenti e i vostri pensieri. Io non ho strumenti per giudicare lo stile di vita privato del tassista medio, conosco quelli che conosco, nel senso che sono quelli che mi capita di prendere a Milano, tra l'altro uso al minimo indispensabile questo servizio, se è necessario di notte, altrimenti io sono una che a Milano utilizza i mezzi quanto più possibile, per cui avrà ragione anche lei. Sicuramente ottenere una licenza, pagare la licenza appunto da tassista è un onere veramente molto impegnativo, poi sicuramente c'è chi ha la possibilità di passare il servizio ai familiari, è un mondo che io non conosco, non sono in grado appunto di giudicare l'entità dei guadagni. Sicuramente ci saranno quelli che hanno, come dire, una condizione economica come quella evidenziata dall'ascoltatore, altri che invece avranno uno stile di vita del tutto normale come noi comuni mortali, per cui abbiamo sentito oggi anche questo passaggio dell'ascoltatore. Adesso direi di andare al primo tema di oggi, il voucher banda larga. Come funzionerà? Minuti preziosissimi di tempo da trascorrere con un grande amico di due di denari che purtroppo abbiamo trascurato un po', ma lo abbiamo subito ripescato per un tema del quale è estremamente competente. Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia D-Day, esperto di audio, video e elettronica di consumo, e per questa giornata grande esperto del bonus internet che parte lunedì, o almeno parte la possibilità per farne richiesta. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, ciao Deborah, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Chiederò un'indennità a due di denari perché mi chiamate sempre quando ci sono dei temi pazzeschi. Grandi grattacapi, grande opportunità sulla carta, e poi vedremo grandi problemi invece, certo, poi nell'esecuzione. Sgombriamo subito il campo dal grande equivoco: non è che da lunedì si potrà andare nel grande centro commerciale a comprare un PC nuovo chiedendo la possibilità, se si hanno i requisiti reddituali, di avere lo sconto. La procedura è un po' più complicata, ci sono delle condizioni chieste dall'impianto che sono un po' più complesse. Ce le spieghi, Gianfranco, per favore? Ma sì, innanzitutto si tratta di uno sconto, e quindi non c'è nessun diciamo regalo. Sì, certo, quei 500 euro vengono scontati da cosa? Dal valore dei canoni di un collegamento a internet migliorativo, e poi con determinati requisiti che vedremo, rispetto a quello che si ha. Ovviamente se non si ha niente si va migliorando per forza, ma deve essere almeno con una capacità di download di 30 megabit, quindi una linea che incomincia a essere abbastanza veloce, e poi da un device che può essere un tablet o un PC che ha dei requisiti che sono stati fissati dal Ministero, quindi non un tablet o un PC qualsiasi, o non certo quello che magari ci piace o che vorremmo avere, ma con determinati requisiti. E il totale di questi sconti, possono essere composti in maniera diversa, deve fare 500 euro. Quindi si risparmiano, sì, 500 euro per sottoscrivere un contratto di almeno un anno a internet e acquistare di fatto un PC o un tablet che viene acquistato con questo sconto. Lo sconto potrebbe essere capiente per l'intero valore del prodotto, oppure no, c'è bisogno di aggiungere qualche cosa. Tutto l'impianto è organizzato però in due fasi, se non ho capito male, Gianfranco. Che cosa contempla la prima e che cosa la seconda? Perché credo che sia una suddivisione che darà l'opportunità a famiglie con requisiti reddituali diversi di come dire, sfruttare questa opzione, questa possibilità del voucher, del bonus internet. Allora, quella, Sì, sì, quella che parte il 9 di novembre è la fase 1 ed è quella che riguarda esclusivamente le famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro, che è già una soglia che abbiamo visto per altre bonus, come per esempio il bonus TV. E queste famiglie avranno appunto questi 500 euro di esposizione. Nella fase 2, invece, che riguarderà le famiglie sotto i 50.000 euro di ISEE, quindi una soglia ben più alta, addirittura si parla di rimuovere questo limite se ci sarà capienza di fondi, sarà soltanto uno sconto sulla connettività di 200 euro. Il requisito per entrambe le fasi sarà quello di passare o da nessuna connessione a una connessione con almeno 30 megabit o da una connessione più lenta, marcatamente più lenta, cioè quindi una DSL, a una di queste connettività con questi requisiti, che però forse, se andiamo a vedere tutta la normativa, sono dei requisiti talmente stringenti che forse sono pochissime queste linee. Però questo bisognerà vedere con quanta flessibilità poi il Ministero accetterà le offerte che le telco stanno formulando adesso al Ministero per fornire loro offerte, diciamo, elegibili di questo bonus. Ecco, quindi, è un meccanismo, diciamo, abbastanza complicato. Esattamente, perché il nostro interlocutore primario, nel caso in cui fossimo interessanti a questo bonus, è proprio l'operatore delle telecomunicazioni con il quale dobbiamo pattuire il contratto. Ecco, esatto, quindi non si è va solo come l'operatore delle comunicazioni. Si deve sottoscrivere questo contratto per questa connettività, sarà l'operatore di telecomunicazioni che certificherà che noi stiamo facendo questo salto qualitativo e quindi abbiamo diritto. Ci sarà un'autocertificazione sullo stato ISEE. Anche qui, però, se andiamo a vedere per esempio sul sito di Vodafone, in questo momento dice sì, autocertificazione va bene, ma dovrai fornirmi anche il certificato ISEE. Perché questo? Perché se per caso ci fosse una dichiarazione mendace, dopodiché semplicemente la telco non si vedrebbe più rimborsata il suo sconto e dovrebbe poi rivalersi a sua volta su chi ha fatto la dichiarazione mendace, e quindi forse le telco chiederanno qualche garanzia in più oltre alla semplice autocertificazione. Questo ancora non è chiarissimo. Comunque, forniti queste cose, è scelta l'offerta che si vuole, è scelto tra quelli che offre la società di telecomunicazioni, tablet e PC. Cioè non ho un voucher e vado in un negozio di elettronica di consumo e scelgo quello che mi piace. Magari il PC ce l'ho già, mi farebbe comodo un monitor, mi farebbe comodo una webcam, qualcos'altro per telelavorare o per telestudiare in questo momento. No, o un PC o un tablet, e solo della lista scelta dai produttori, che all'interno dei requisiti fissati dal Ministero. Che è tra l'altro l'aspetto più problematico sollevato, se vogliamo, dalle associazioni dei consumatori, che dicono gli operatori telefonici potranno gestire l'intero processo relativo al bonus banda larga, non solo la parte che riguarda la connessione, ma anche la consegna di modem, PC e tablet incomodato d'uso. Per molti questa potrebbe essere in realtà una semplificazione, avere un interlocutore unico per finalizzare tutta la pratica. Per qualcun altro invece lo vedo un po' una distorsione di mercato. Qual è il tuo punto di vista da tecnico, Gianfranco? Ma più che altro mi attengo ai fatti e diciamo che tutta la procedura è sub iudice. L'associazione dei retailer italiana, Aires, ha depositato un ricorso al TAR che verrà discusso per una sospensiva, che verrà discusso il 20 di novembre, e quindi tutto potrebbe partire il 9 ed essere sospeso il 20. Quindi diciamo che ancora si naviga un po' nella nebbia, proprio per questo motivo che, come i negozi hanno gestito per i device, la 18 app, il bonus docenti, lo stesso bonus TV, si candidavano a gestire anche questa tipologia con una modalità di voucher o nominativi o da fare su un portale, come è stato fatto per molte altre cose. Questo non è stato chiesto, non è stato previsto. Qualcuno l'ha visto come un favore alle telco, che ovviamente andrebbero a veicolare grandi quantità di prodotti, e qualcuno ha anche il sospetto che il prodotto, che è dato una sorta di forma ibrida, non è di proprietà del diciamo di chi beneficia del contributo per i primi 12 mesi, ma lo deve diventare al 12° mese, quindi non è propriamente un comodato gratuito, poi diventa di proprietà alla scadenza del 12° mese, però che possa essere visto anche questo come una sorta di lock-in, quindi anche il device e il modem stesso, con cui, che verrà pagato, ma che probabilmente serve solo con quel gestore, quindi anche in un cambio di gestore, una situazione di cambio di gestore diventerebbe poco utilizzabile, possa essere visto come un vincolo di lock-in. E poi ci sono i requisiti delle linee. I requisiti delle linee, francamente, destano qualche perplessità, perché devono avere una banda garantita di 7 mega e mezzo in download, cioè di 15 mega in download e 7 mega e mezzo in upload, che sono bande garantite che soltanto la fibra a casa ha, l'FTTH, e non il cosiddetto FTTC, che sono la stragrande maggioranza delle connessioni attivabili. E infine, così te ne butto un'altra sul tavolo, ci sono le zone. Anche qui abbiamo, esatto, non le zone gialle, rosse. Lo stavo riguardando negli appunti, infatti. Sì, abbiamo alcune zone, perché alcune regioni hanno chiesto che l'offerta non fosse flat su tutte le località, ma fosse riferita solo ad alcuni comuni all'interno di queste regioni, che sono Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria e Toscana. Quindi all'interno di queste regioni bisogna andare sul sito, in questo caso infratelitalia.it, di Infratello, banda ultralarga, .italia.it, e vedere se il proprio comune rientra tra i comuni, diciamo, che le regioni hanno autorizzato, ma poi ci penserà la telco nel caso in cui si faccia domanda. E anche questo è un altro aspetto: tutto verrà gestito molto manualmente anche dalle società di telecomunicazioni, che per questo si sono lamentate, perché dice in questo, con tutte queste clausole, tutte queste verifiche da fare, non riusciremo mai a gestirla in maniera automatizzata, dobbiamo mettere delle persone che devono gestire manualmente tutte queste pratiche, e questo ha un costo. Ecco, quindi insomma non affrettatevi a fare delle scelte così di pancia, le risorse ci sono, speriamo che non sia appunto ancora una volta un click day, ma diciamo che quando poi si parla con un operatore di telecomunicazione per attivare questi servizi, non è che sia sempre un processo flash, per cui abbiamo tutto il tempo per fare una scelta consapevole. Gianfranco, purtroppo è tardissimo, ti suggerisco di non lasciare il paese, perché ti ripeschiamo sicuramente la settimana prossima per capire come stanno andando le cose. Sono, ho un appuntamento adesso con il Ministero dell'Economia, quindi devo andare al secondo argomento, è tardi, non ti dico che batteria di domande, ne sono arrivate a decine. Immagino. grazie Gianfranco Giardina, alla borsa. Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare. Due di denari. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e dai forza al tuo domani. Eccoci di nuovo in diretta, ancora buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Allora, come vi anticipavo, oggi parliamo anche del nuovo BTP Futura. L'operazione del Tesoro parte lunedì, un nuovo collocamento, il secondo di questo tipo in questa fase di emergenza sanitaria, per fronteggiare la quale il Tesoro naturalmente ha sfoderato delle armi anche straordinarie, con delle emissioni che abbiamo imparato a conoscere come finalizzate, destinate. Questo è il secondo BTP Futura. Abbiamo avuto anche in maggio il nuovo BTP Italia, quello era uno strumento che molti risparmiatori conoscevano già, ma l'ultimo emesso e collocato anche in questo caso ha avuto questo carattere straordinario di emissione finalizzata. Quali sono le caratteristiche dell'operazione che parte lunedì? Le chiediamo naturalmente all'affezionatissimo ormai a Due di Denari, dottor Davide Iacovoni, responsabile della direzione debito pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Buongiorno e grazie, dottore. Buongiorno, buongiorno, sempre un piacere, grazie a voi. Grazie. Allora, volevo semplicemente chiarire a molti ascoltatori che spesso ci così fanno delle osservazioni sul fatto che diamo molto spazio a queste emissioni. Noi lo facciamo semplicemente non per dare suggerimenti di investimento, non lo possiamo fare, non lo può fare il Ministero dell'Economia. Sono però delle operazioni straordinarie e siccome il risparmiatore italiano storicamente è sempre stato molto affezionato al titolo di Stato, poi ha abbandonato, ha fatto scelte di diversificazione diverse, adesso c'è sicuramente un tentativo del Tesoro di rinsaldare la relazione con la famiglia italiana in qualità di famiglia di risparmiatori, famiglia risparmiatrice. C'è anche una fase di emergenza straordinaria che stiamo vivendo e quindi è bene che si conoscano queste operazioni, e poi c'è tutto lo spirito nuovo con cui queste operazioni vengono fatte. Dottor Iacovoni, partirei da qui. Il tema del titolo finalizzato è certamente come dire, un approccio nuovo che, pandemia o no, sarà, come dire, un po' il futuro anche delle obbligazioni governative, non solo da prendere in considerazione in questa fase pandemica. Probabilmente si andrà sempre di più, si sta strutturando proprio in maniera diversa il mondo obbligazionario pubblico. Ma diciamo che per quanto ci riguarda, diciamo, queste emissioni vanno sicuramente a coprire della, quello che lei diceva prima, cioè una situazione straordinaria che ha portato il governo a sottomettere al Parlamento delle richieste di autorizzazione per un allargamento del deficit, quello che in termini tecnici viene chiamato scostamento, e ce ne sono stati ben tre quest'anno per un importo complessivo molto rilevante, e quindi quello che noi abbiamo fatto è portare sul mercato delle emissioni che vanno a coprire proprio questi scostamenti aggiuntivi. Siccome noi sappiamo quali sono le ragioni che hanno determinato questi scostamenti aggiuntivi, possiamo quindi dire che queste emissioni vanno diciamo, a coprire questi specifici sforzi che vengono fatti proprio per compensare gli effetti economici della pandemia. Rimane il fatto tuttavia che noi abbiamo poi un principio di unitarietà del bilancio, per cui la gran parte delle missioni non ha una destinazione come dire, finalizzata ad alcuni specifici voci di spesa, ma va a finanziare la copertura del fabbisogno generale. Però è vero che su quest'anno, grazie a questa particolarità, abbiamo potuto indirizzare queste emissioni specificatamente a questi interventi. Questa è una novità, non c'è dubbio che è molto rilevante. Quali sono le caratteristiche dell'operazione, dottor Iacovoni, che parte lunedì? Dunque, l'importante novità di questa seconda emissione del BTP Futura, che parte appunto il 9 novembre, quindi parte esattamente lunedì e si snoderà durante tutta quanta la settimana fino a venerdì mattina, salvo una chiusura anticipata che potremmo fare, ma che comunque garantirà i pieni tre giorni, quindi lunedì, martedì e mercoledì verranno garantiti pienamente. È un'emissione che diciamo, prevede una durata di 8 anni, quindi non più di 10 anni come l'emissione di luglio. Questa è una emissione di 8 anni, quindi verrà emessa nel 2020 e scadrà nel 2028. E avrà un meccanismo di cedole cosiddetto step up, cioè sono delle cedole che salgono progressivamente nel tempo. In questo caso avremo le prime tre cedole che saranno pari, il comunicato del Tesoro sta uscendo in questo momento. C'è già l'anteprima, quindi vediamo l'anteprima, saranno pari allo 0,35%, poi avremo il secondo gruppo di cedole, quindi che riguarderanno il quarto, il quinto e il sesto anno, che avranno una cedola pari allo 0,6%. E poi avremo due cedole finali, quindi per il settimo e l'ottavo anno, che avranno una cedola pari al pieno 1%. Quindi è una progressione in salita molto importante che a nostro avviso rende questo strumento particolarmente appetibile per appunto l'investitore retail, perché gli conferisce anche una discreta stabilità di prezzo lungo la vita del titolo. E poi lo ricordo che per chi lo detiene fino a scadenza c'è questo premio legato alla crescita nominale del PIL media nel periodo di vita del titolo, che avrà un minimo pari all'1% e un massimo pari al 3%, considerando che questo è un titolo che ha una vita residua, una vita ridotta rispetto a quella all'emissione di luglio, perché abbiamo detto 8 anni rispetto a 10 anni, questo premio ha un valore quindi specifico maggiore di quello che accadeva nella precedente emissione di luglio. Naturalmente questo va anche a compensare il fatto ovviamente che adesso le cedole di questa emissione sono più basse delle cedole emissione di luglio. Allora, ricordiamolo dunque, visto che c'era data in anteprima la notizia, notizia, non è neanche ancora sulle agenzie. Le cedole, che ricordiamo vengono pagate con cadenza semestrale, vengono calcolate in base a questo tasso dato, a questo dato tasso cedolare fisso per i primi tre anni, che è dello 0,35%. Esatto. Aumenta per la prima volta dopo i successivi tre anni e arriva allo 0,6%, e una seconda volta per gli ultimi due anni di vita del titolo all'1%. E poi c'è il premio fedeltà finale, che sarà legato appunto al tasso di crescita del paese, che noi speriamo riprenda ad andare, no, non tanto per il rendimento appunto del BTP Futura, speriamo che abbia fortuna, ma soprattutto perché questo sottintenderà una ripartenza di questo paese che ne ha tanto bisogno. Ricordiamo, assolutamente, l'unica cosa che volevo precisare, chiedo scusa se la disturbo, se la interrompo, l'unica cosa che volevo sottolineare è che quelli che comunichiamo oggi sono comunque dei tassi cedolari minimi. Quindi poi noi andremo avanti nel collocamento appunto durante la prossima settimana, quando il collocamento sarà chiuso andremo a riguardare chiaramente l'andamento e la situazione dei tassi di mercato sui titoli di Stato italiani, e quindi ove necessario potremo riaggiustare queste cedole al rialzo, esclusivamente al rialzo, ripeto, in caso le condizioni di mercato durante i giorni di collocamento siano mutate. Commissioni di sottoscrizione non ce ne sono, esattamente come nelle operazioni precedenti. Perfetto, adesso dottor Iacovo, ne chiedo un minuto di pazienza perché ho un impegno che adesso spiego anche a lei, poi ritorneremo su questo argomento facendo magari un po' di parallelo rispetto alle altre due grandi operazioni fatte la scorsa estate, per capire anche quali aspettative si possono avere in questo frangente, facendo anche un punto della situazione rispetto al taglio medio che era stato sottoscritto. Non erano andate male le operazioni appunto scorse, il BTP Futura in particolar modo, il BTP Italia in particolar modo di maggio è andato decisamente bene perché ha raccolto 14 miliardi di euro, ma adesso sul paragone ci andiamo fra un attimo. Molti di voi continuano a chiedere di Mauro Meazza. Vi accontento subito. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. So che alcuni chiedono mie notizie e non sono soltanto i miei creditori, allora ho pensato di fornirle nel modo a me più acconcio, cioè con un sonetto che vado a leggere. Li giorni miei che passo lemme lemme in questa quarantena che è da saggi mi portan già come preziose gemme gli ascoltator che mandano messaggi, e anche incalzati dai DPCM voglion saper se è per salute o viaggi o per ballare ben Gerusalemme, che è un po' che manco da questi paraggi. Allora dico a reti unificate, come un esperto di mondiale fama, va tutto bene e alto va il mio cantico. Voi, sempre attenti e distanziati state, mentre il poeta incredulo declama, oh che impressione, desiderare il traffico. Due di denari. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Eccoci qua allora a spiegare ai nostri ascoltatori con la graditissima collaborazione del dottor Davide Iacovoni, responsabile direzione debito pubblico del Ministero dell'Economia, come funzionerà il collocamento del nuovo BTP Futura a partire dal lunedì prossimo. Ne abbiamo spiegato le caratteristiche, abbiamo dato in anteprima assoluta i tassi minimi garantiti di questa emissione. Peraltro un ascoltatore, dottor Iacovoni, chiede lo 0,35%, che è il tasso minimo garantito dei primi tre anni di vita del titolo, annuale o semestrale, diciamo annuale, ma l'erogazione della cedola avviene su base semestrale. Correttissimo. Ecco, e quindi Tino gli abbiamo risposto, lordo netto è lordo. È lordo. Ecco qua. Poi altre cose da ricordare che non abbiamo ricordato all'inizio, lotto minimo sottoscrivibile? È 1000 euro. E tra l'altro 1000 euro sì. Chiedo scusa, io tra l'altro chiedo scusa, ho un ritorno molto forte. Comunque 1000 euro sono sul mercato obbligazionario telematico di Borsa Italiana, il MOT, e quindi diciamo chiunque va in banca o effettua il suo ordine sull'home banking, questo ordine verrà canalizzato attraverso l'intermediario sul mercato MOT di Borsa Italiana, dove è previsto questo taglio minimo pari a 1000 euro. Luigi dalla provincia di Milano con la sua domanda. Adesso io non la vorrei girare al dottor Iacovoni, ma mi incuriosiva capire qual è la difficoltà di fare questa prenotazione. Luigi. Allora, io non ho il innanzitutto buongiorno a tutti e grazie. Grazie anche a lei. Io non ho il conto online, devo andare in banca. Sì. Vorrei partecipare con una minima somma, sì, a questo. Ecco, però ho 75 anni e se mi fermano? Addirittura lei se ne fa, perché sta a Milano giustamente in zona rossa, deve andare. Ecco, su questo siamo nelle FAQ, dottor Iacovoni, probabilmente in queste fasi dovremmo mettere anche questa informazione. No, questo è molto importante, sì. Anzi ringrazio l'ascoltatore perché pone l'accento su una questione dirimente, direi. Le banche si stanno organizzando, o meglio, sono già organizzate, quindi... Ma faccia una telefonata. Io ho un ritorno molto forte non nella so se non è colpa nostra, dottor Iacovoni, purtroppo, okay. Forse è un problema, non so se ha magari più dispositivi aperti. No, no, io sono solo col mio telefono. Mannaggia. No, non c'è problema, cerchiamo di andare avanti. Sì. E dicevo, le banche hanno già approntato delle modalità di acquisto del titolo che sostanzialmente consentono di acquistarlo in via remota senza doversi recare fisicamente in banca, anche ove non si abbia l'home banking o la funzione di trading. Sostanzialmente ci sono dei meccanismi di prenotazione via mail o via telefono che consentono di facilitare al massimo questa procedura. Ma infatti immaginiamo consiglio che ci veramente di chiamare il proprio referente, esatto, in banca e farsi spiegare, perché sappiamo di per certo che quasi tutti si sono attivati in questo senso. Ci manca pure che le banche non accontentano le persone che non possono raggiungere la banca stessa, il Ministero delle economia poi le striglia tutte. Detto questo, allora un ascoltatore chiede ancora, ma a questo punto l'abbiamo chiarito prima, si va al riparto, tutte le richieste vengono esaurite, per i primi 3 giorni viene accettato tutto il monte richieste che arriva dal piccolo risparmiatore, quindi nessun riparto, dottor Iacovoni, ribadiamolo ancora. Confermo pienamente, tutte le richieste che arrivano tramite le banche sul MOCT vengono completamente soddisfatte durante i giorni di apertura del collocamento. Chiaramente se il collocamento dovesse essere chiuso prima, dopo la chiusura del collocamento non sarà più possibile inviare ordini, però fino alla data e all'orario di chiusura del collocamento tutte le richieste vengono interamente soddisfatte. Il BTP Italia, collocato fra il 18 e il 21 maggio, ha raccolto 14 miliardi di euro. Il BTP Futura Nuovo di Zecca, collocato fra il 6 e il 10 luglio, ha raccolto 6 miliardi. Lei non è un mago, naturalmente, non possiamo proprio sapere, no, come potrà andare, però avete riproposto l'iniziativa. Che aspettative ragionevolmente ci possiamo fare, tenendo conto del grande tema che affrontiamo sempre, i 1.700 miliardi di euro che ci sono sui conti, certo, correnti degli italiani? Guardi, noi abbiamo lavorato molto in queste settimane anche appunto per fare le analisi di mercato che facciamo di consuetudine per preparare queste operazioni. I riscontri che ci arrivano sono buoni. È evidente che siamo in un contesto di mercato che è un po' diverso, sia da quello di maggio, dove ricordo portammo la nuova emissione di un BTP Italia, sia di quello di luglio, dove portammo la prima emissione del BTP Futura. Contesto di mercato che vuol dire che i tassi sono un po' più bassi, però diciamo vista l'attuale offerta di strumenti in questa fase il BTP Futura risulta essere particolarmente appetibile, quindi abbiamo dei buoni riscontri, ma dobbiamo tenere in forte considerazione anche questo nuovo contesto di mercato. Rimane però il fatto, questo lo voglio sottolineare, che uno strumento che è più corto, da 10 scende a 8 anni, che ha una premialità invariata e in un contesto in cui è facilmente immaginabile che dal prossimo anno la crescita del PIL, soprattutto per il prossimo triennio, sarà superiore al 3%, beh, questo fa sì che la probabilità di avere un premio significativo alla scadenza sia particolarmente elevata. Tra l'altro ci sono degli ascoltatori, dottor Iacovoni, che ci stanno sottoponendo delle domande di mera convenienza economica, fanno proprio il conto della serva, come fa Maurizio da Milano, e dice, insomma, se ho capito capito bene, abbiamo il, lo 0,35% lordo, poi c'è tutta la chiaramente componente fiscale, che è quella agevolata tipica del titolo di Stato. Questo è importante. E poi c'è naturalmente anche la spesa, la, quella che chiamiamo la mini patrimonialina, perché chiaramente detenere il conto titoli in banca a costa, e quindi va sottratta anche quella cifra lì, e lui dice: quanto mi resta? Consideriamo quelle che sono in questo momento le emissioni tradizionali del tesoro, che già su scadenze sempre più lunghe stanno praticando il territorio negativo, quindi forse anche da questo punto di vista vale la pena fare un ragionamento. Questo è un aspetto molto importante, la ringrazio. Effettivamente in questo momento noi abbiamo una curva di BTP che intanto per la scadenza tre anni è stabilmente in territorio negativo, è molto vicino al tasso zero anche sulla scadenza quinquennale. Quindi questo vuol dire che se un soggetto acquista un BTP su queste scadenze ha un rendimento negativo o veramente vicino allo zero, con questo strumento certo prende una cedola che può apparire bassa, ma che sullo stesso orizzonte temporale dà comunque una redditività che oggi appunto è molto difficile trovare con strumenti analoghi, cioè con lo stesso merito di credito, quindi con la stessa sicurezza rispetto a questo nuovo strumento che andiamo a collocare da lunedì prossimo. Quali sono stati gli importi medi chiesti nelle precedenti operazioni, dottore Iacovoni? Forse 30.000 euro, qualcosa del genere? Sì, esatto, sì, soprattutto sull'emissione, la prima emissione del BT Future di luglio, avevamo una size media, una dimensione media dell'acquisto intorno ai 35.000 euro. La cosa interessante di quell'emissione è che da quello che ci è stato riportato, una ampia maggioranza di sottoscrittori erano aggiuntivi, quindi diversi da coloro che avevano acquistato il BTP Italia qualche mese prima, nel mese di maggio. Però anche in quell'emissione del BTP Italia la size media, la dimensione media dei contratti era piuttosto bassa. Adesso non ricordo l'importo esatto, ma era, mi pare, poco sopra i 40.000 euro. Un'ultima domanda, poi la nostra trasmissione volge al termine, poi vedremo la settimana prossima se ripescarla, dottor Iacovoni, appunto anche in relazione all'andamento dell'operazione. Non la voglio mettere in difficoltà, dica quello che vuole. Sono in programma, secondo lei, altre operazioni di questo tipo per l'anno prossimo? Perché temo che questo Covid ci accompagnerà con tutti i suoi danni ancora per un po', oppure, come dire, una scelta di questo tipo chiaramente dipenderà anche dalle linee guida del Ministero dell'Economia che verranno fissate, revisionate prossimamente, dipenderà anche da come andrà questa operazione, una scelta del genere. Guardi, c'è un impegno, diciamo, strutturale a aumentare la penetrazione dei portafogli retail del debito pubblico italiano in modalità diretta, quindi con dei titoli che entrano direttamente nei portafogli degli investitori individuali. E quindi è una politica che proseguirà nei prossimi anni. Quest'anno ha avuto chiaramente un picco importante dovuto, come lei giustamente sottolineava, alla crisi che stiamo vivendo, ma a prescindere da quale sarà il decorso di questa crisi il prossimo anno, c'è comunque l'intenzione di continuare a offrire questi o eventualmente anche altri strumenti proprio dedicati al sottoscrittore individuale. La ringrazio moltissimo, grazie a Davide Iacovoni, responsabile direzione debito pubblico del Ministero dell'Economia.